penso ancora di sedare la rivolta. Impugno i sogni, arma a doppio taglio. Saluto i rimanenti, attenti. Mentre rincaso, accendo i fari. Il fuoco che mi aspetta brucia, brucia mentre dormo, tremo la venuta ancora perduta. Nel mio triste porto, este porto.